Stress Test, il mondo alla prova del coronavirus. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. We just attended a very important task force meeting on the virus that everybody is talking about all over the world, no matter where you go. 如果这方面搞得井井有条，那我们这一次啊，夺取早日夺取胜利啊，我们是有把握的。 Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo è Lontano, la squadra di Nessun Luogo, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi che è in regia. I numeri di Nessun Luogo, o meglio il numero 349-238-6666 per sms e whatsapp per domande e commenti sul tema che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Potete usare anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, questa è la pagina, lì trovate anche la diretta video della trasmissione e poi Twitter. I due account da tenere d'occhio se amate cinguettare e amate questo social sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Stress test. Il mondo intero è chiamato alla prova del coronavirus. Regimi autoritari e democrazie, monarchie, repubbliche islamiche, grandi federazioni stanno affrontando l'emergenza. L'epidemia sta mettendo alla luce tutti i pregi e i difetti dei governi e delle amministrazioni mondiali. Sta facendo emergere debolezze, ritrosie, deficit politici. Così come sta facendo emergere prepotenti le reazioni delle società e delle pubbliche opinioni. Con risposte diverse e con comunicazioni diverse, ma con quell'efficacia? Davvero i regimi autoritari o le dittature, sacrificando la pluralità e il dissenso, hanno fornito la risposta migliore al virus? O è vero il contrario? Oggi faremo un viaggio per verificare i casi virtuosi e quelli viziosi, e per fare un bilancio, per capire se alla fine il coronavirus non stia facendo emergere un virus molto, molto più pericoloso, quello del potere sotto stress. E per quello, per ora, non c'è un vaccino. Vi invito a commentare su questo tema 349-238-6666, ma come al solito, velocissimi, andiamo a misurare la nostra personalissima temperatura, quella internazionale. Dossier libico che sapete che curiamo da tempo. La notizia è che proprio ieri il generale Khalifa Haftar, capo dell'esercito nazionale libico, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e sotto invito peraltro sembra del capo di governo francese, pare che Haftar abbia dato disponibilità a un reale cessate il fuoco se al-Serraj, quindi l'altra fazione libica sul campo, dovesse dare lo stesso consenso. È interessante vedere anche le dichiarazioni da parte dell'ufficio stampa del generale Haftar, perché ha detto che Macron si sarebbe detto pronto a offrire pieno sostegno alle forze del generale libico impegnate nella lotta al terrorismo e nel raggiungimento della stabilità nel paese nordafricano. È stato sempre l'ufficio stampa del generale Haftar a dire: guardate che è stata Parigi a invitarci. Altra notizia interessante arriva dalla Russia, perché il presidente Vladimir Putin, evidentemente convinto di poter stringere ancora di più la sua morsa sul Cremlino, che cosa ha detto poche ore fa? Si è detto favorevole a una riforma che è stata proposta da alcuni parlamentari che gli permetterebbe di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. Vi abbiamo già raccontato di questo tentativo da parte di Vladimir Putin, complice anche di quella sorta di balletto istituzionale che aveva già messo in atto anni fa con Medvedev. Insomma, l'idea per Vladimir Putin è o di rimanere lui al potere o di nominare in qualche modo un delfino che possa proseguire le politiche dello zar. Qua sto citando evidentemente ancora una volta l'Economist, il prestigioso settimanale britannico. Ieri vi dicevamo del tour europeo di Erdogan, adesso possiamo anche darvi conto di quelli che sono stati i risultati, al di là in realtà di dichiarazioni abbastanza di prassi, di una generica convergenza di intenti, non è uscito tantissimo, sia dall'incontro con von der Leyen che da quello con Stoltenberg, segretario generale della NATO. Sostanzialmente Erdogan all'Unione Europea ha chiesto che i programmi di aiuti vadano avanti e alla NATO continua a chiedere con forza un maggiore sostegno dopo che quella entrata, quell'ingresso, secondo alcuni invasione, secondo altri annessione vera e propria di parte della Siria, l'ha messo di fronte all'esercito di Assad e alla copertura aerea dell'aviazione russa. Stoltenberg, a leggere le dichiarazioni, avrebbe genericamente preso tempo dicendo che la NATO sta già supportando la Turchia e continuerà a farlo. A proposito di Turchia, ieri abbiamo in qualche modo fotografato quella che è la gravissima situazione dei tanti milioni di siriani, sono 3 milioni e 600 mila siriani, 4 milioni in tutto i rifugiati, e la grande leva politica che il presidente turco Erdogan sta utilizzando in questo suo tour europeo, ma non solo. Ieri vi abbiamo anche raccontato degli aiuti che l'Unione Europea ha dato e sta continuando a dare alla Turchia stessa per garantire ai rifugiati una esistenza e non soltanto una sopravvivenza. In particolare c'è questa operazione che è stata messa in atto ormai da tempo dal World Food Program, e tra poco cederà il testimone alla Federazione Internazionale della Croce Rossa, per cui sostanzialmente, ed è anche abbastanza una novità dal punto di vista della cooperazione dell'emergenza a livello internazionale, si dà cash tramite una carta di debito, una cifra mensile che sta consentendo ai rifugiati siriani di non soltanto sopravvivere ma anche iniziare un nella società turca. Vi do un po' di numeri perché sono interessanti, partendo da cosa? Dagli attori: Unione Europea, World Food Program, Mezzaluna Rossa Turca e governo turco. Dicevo, 3,6 milioni di rifugiati siriani. Per il momento questo progetto ha garantito a 1.700.000 di rifugiati di non cadere in povertà, con una spesa di 1 miliardo e 300 mila milioni, 19 euro mensili a testa, più varie ricariche trimestrali con una semplice carta di debito che può essere utilizzata in tutti gli esercizi commerciali che sono presenti in Turchia. Sentite la voce e la spiegazione di questo progetto di Martin Penner, portavoce del World Food Program, da Ankara, come avverrà l'implementazione futura di questo importante progetto. Sentite. Noi come WFP l'abbiamo pensato e costruito questo progetto insieme all'Unione Europea e ai partner qui in Turchia, e poi l'abbiamo portato avanti per 3 anni. Adesso la macchina funziona bene e a fine mese passeremo le redini ai colleghi della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'Unione Europea ha già stanziato i soldi per questa prossima fase, che andrà avanti, pensiamo, fino a metà dell'anno prossimo. Quindi si va avanti. E poi devo dire che questo tipo di assistenza con denaro si sta usando sempre di più nelle emergenze, perché è una forma di aiuto molto flessibile, veramente la forma più flessibile che esiste. La voce di Martin Penner da Ankara, World Food Program, per cercare di spiegare un po' meglio nel dettaglio quella situazione che vi abbiamo raccontato ieri e come la comunità internazionale sta cercando di porvi rimedio. A questo punto, con Penner, la domanda è molto ovvia, molto banale se volete, ma va dritta a un punto. Il punto qual è? Che normalmente per i rifugiati si applica una logica emergenziale, cioè si cerca di dar loro un tetto, magari si ospitano in campi profughi. Qua la realtà con i siriani è un po' diversa, e la domanda, torno a quella, sta il World Food Program con l'Unione Europea e tra un po' la Federazione Internazionale di Croce Rossa, stanno curando un sintomo, oppure questi 19 euro al mese con le ricariche trimestrali, insomma una piccola carta di debito, possono essere la base per una successiva integrazione? Sentite ancora Penner. È importante sapere che la stragrande maggioranza dei rifugiati qui in Turchia non vive nei campi ma nelle città insieme ai cittadini turchi, quindi in un certo senso sono già integrati, ma ovviamente se non hanno i soldi per fare la spesa, per pagare un affitto o altre cose di questo genere, non possono essere veramente integrati, anzi senza soldi si distaccano abbastanza dalla popolazione locale. Quindi questi aiuti in denaro sono molto importanti per loro, vuol dire che possono andare a fare la spesa nello stesso supermercato dove va il vicino turco, e la gente del luogo vede che queste persone dalla Siria o altrove stanno anche contribuendo all'economia loro, che è una cosa importante chiaramente. Quindi questa gente nuova non sta togliendo risorse ma sta lì a spendere i soldi nei loro negozi, e tutto questo secondo me contribuisce all'integrazione. Detto questo, noi come tutti speriamo che ci sarà la pace in Siria e che tutti quelli che vorranno possano tornare nel loro paese e ricominciare la loro vita, questo è chiaro. Così Martin Penner, responsabile comunicazione del World Food Program ad Ankara. Adesso, Valeria Bernardi, è il momento di andare in Cina e iniziare il nostro viaggio. E parte proprio dalla Cina il nostro viaggio e la nostra analisi per cercare di capire se in questo mondo che è stato messo alla prova e sarà ancora messo alla prova dal coronavirus esista un regime o una forma statale o un luogo che ha risposto in maniera pronta, in maniera virtuosa, o altri invece che hanno fatto al contrario. Insomma, cercheremo di capire se la risposta di alcuni regimi diversi da altri sia stata più efficace e al limite anche più efficiente nella non soltanto gestione dell'emergenza sanitaria ma anche nella comunicazione dell'emergenza stessa. L'abbiamo chiamato stress test, è un vero e proprio stress test, vengono fuori vulnerabilità, fragilità, punti di forza, quanto le collettività sono coese, quanto sono responsabili. Qualche giorno fa il New York Times titolava "Ce la faranno gli italiani a rispettare le regole", e a volte appunto ci si abbandona a qualche cliché. Detto ciò, secondo noi è interessante andare a vedere come vi siano differenze tra i regimi proprio nella risposta all'emergenza. 349-238-6666 per voi. C'è qualcuno che già scrive come un ascoltatore da Piacenza, e adesso ho perso il nome, eccolo qua, Ettore da Piacenza dice: il coronavirus in democrazia si presume di essere informati, Polonia, Ungheria non sappiamo niente, perché chi divulga notizie viene incarcerato? Così appunto Ettore, che in qualche modo mi sembra spezzi decisamente una lancia a favore dei regimi democratici, che dalla loro invece scontano evidentemente in alcuni casi, sì c'è più trasparenza, ma forse quando è il momento di chiudere per esempio una città ci mettono un pochino più di tempo. Detto ciò, vi porto lì dove tutto è iniziato, a Wuhan. Lo sapete, ci sono state anche tante polemiche all'inizio, gli amministratori, i funzionari locali non avrebbero informato per tempo Xi Jinping per quella strana fenomenologia del Partito Comunista e del regime cinese, per cui informare il proprio superiore di un problema che non si è capaci di gestirlo è un serio problema alla carriera. Come un serio problema, ma addirittura all'intera coscienza collettiva cinese, è stato il testo di una lettera. E questa lettera è uscita pochi giorni prima della prima visita di Xi Jinping a Wuhan. È stato un segnale importante. I più attenti osservatori delle vicende cinesi, i sinologi, dicono: attenzione, perché si va verso la normalizzazione. Se il presidente arriva lì, aspettiamo altri due o tre segnali. La riapertura delle scuole e i grandi consessi del Partito Comunista, e a quel punto sapremo che la crisi è stata superata. Lo ricordo, 11 milioni di abitanti paralizzati e chiusi per settimane e settimane, e a un certo punto c'è stata una voce che si è levata, qualcuno che si è seduto davanti alla sua tastiera e ha messo insieme un atto che è un po' denuncia politica e un po' tantissimo autobiografia. Ascoltate la voce di questo residente di Wuhan. Come residente di Wuhan, io e la mia famiglia stiamo vivendo un inferno. La città è rimasta in stato di quarantena per ben oltre un mese. Ogni notte, prima di addormentarmi, provo un senso di irrealtà e mi pongo molte domande. So che il virus è la ragione di questa quarantena, ma perché Wuhan doveva diventare un inferno? Perché ci hanno comunicato della messa in stato di quarantena della città alle 2 del mattino, esattamente il giorno prima delle celebrazioni per il Capodanno cinese? Perché nessun funzionario del governo mi ha fornito le istruzioni su come andare avanti in una città paralizzata? Ho quasi 30 anni, io e la mia famiglia ci siamo dedicati alle nostre carriere per costruirci una vita migliore e abbiamo quasi avuto successo. Bastava poco così per entrare nel ceto medio, ma le cose non sono andate come mi aspettavo. Ho lavorato sodo fin da quando ero bambino. Il mio sogno era diventare giornalista e avevo passato l'esame per entrare nella migliore scuola di giornalismo della Cina. Poi ho imparato che, dato il controllo del governo sui media, dire la verità non è un'opzione possibile. Così ho abbandonato il mio sogno e ho intrapreso un'altra carriera. Continuavo a dirmi che il mio duro lavoro mi avrebbe ricompensato e ho deciso di stare zitto su questioni politiche, anche quando vedevo persone trattate ingiustamente dal governo. Pensavo che se avessi seguito il percorso stabilito ne sarei rimasto al sicuro. Ora capisco che è tutta un'illusione. Una vita sicura non è praticabile in un sistema che non comunica con noi in maniera onesta. C'è un proverbio cinese che per me ha assunto un nuovo significato. Quando il bastone ha colpito la mia testa, ho finalmente capito il dolore. E ho capito quelli che prima piangevano per il dolore. Forse non è vero che solo la Cina può costruire un ospedale in 10 giorni, che solo la Cina può mobilitare così tante persone per fronteggiare un'epidemia, che solo la Cina può bloccare milioni di persone alla velocità della luce. Ma la gente non pensa in maniera critica, non capisce che se avessimo avuto i diritti umani, la democrazia e la libertà, avremmo saputo cosa stava succedendo a Wuhan con un mese di anticipo. E il primo a lanciare l'allarme non sarebbe morto invano. Questo messaggio, questa lettera, che lo dicevo, miscela in maniera quasi elegiaca quello che è un'esperienza totalmente autobiografica con una forte denuncia verso il regime comunista cinese, tacciato di aver nascosto le cose, di non aver esercitato l'adeguata trasparenza, è girata tantissimo sui social cinesi e forse sta mettendo in discussione anche quella che è, come dire, quella indiscussa fino a questo momento partecipazione collettiva al bene comune dei singoli cinesi rispetto al bene più alto. Si entra in un territorio che è misto tra politica e cultura. Mi aiuterà in questo strano valico, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, Giada Messetti, giornalista, sinologa, autrice televisiva, esperta di Cina, che è fresca di pubblicazione per Mondadori di un libro, Nella testa del dragone, sottotitolo Identità e ambizioni della nuova Cina. Giada, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, ti faccio fare uno sforzo, ma se sei autrice sì. Normalmente scrivi per gli altri, quindi insomma sì. non sarà uno sforzo eccessivo. Come si può ridurre con uno slogan come la Cina ha gestito l'emergenza coronavirus, anche dopo aver sentito quella lettera che insomma mi dicevi hai letto, l'hai anche tu studiata attentamente? Direi che l'obiettivo è stato risolvere il problema nel tempo più velocemente possibile, direi, come slogan, cioè pragmatismo cinese, sì, la metterei come sì, slogan, cioè sì. Pragmatismo cinese elevato proprio all'ennesima potenza, perché la Cina questa volta si giocava due partite importanti. La leadership di Xi Jinping si giocava sia la partita interna, perché le epidemie, le emergenze sanitarie sono delle cose che i cittadini cinesi si aspettano che il partito sappia gestire. Mm. Il patto su cui si basa il rapporto tra governo e cittadino cinese è un patto per cui il partito dà benessere economico, stabilità e appunto gestione di emergenze come queste sanitarie in cambio della, diciamo, la rinuncia dei diritti, e quindi in questo caso i cittadini si aspettavano una gestione pronta da parte del governo. Sì. L'altra carta che si sta giocando la Cina è quella internazionale, ovvero in questo momento Xi Jinping oggi è andato a Wuhan fondamentalmente a dire noi, che in questo momento ci stiamo presentando al mondo come una guida alternativa agli Stati Uniti, abbiamo gestito un'epidemia globale, mondiale, in una maniera impeccabile e nel giro di un mese e mezzo siamo riusciti a far rientrare il contagio. Sì. Quindi diciamo è doppia la lettura, sì, sia interna che esterna. Sì. Peraltro hai citato Giada l'atteggiamento della leadership statunitense, proprio ieri dicevamo quanto Donald Trump stesse minimizzando l'impatto del coronavirus, e questo ci dà anche decisamente un diverso approccio. Stiamo parlando di due regimi diversissimi: da un lato c'è quella che molti celebrano come la più grande democrazia del mondo, dall'altro un regime autoritario, un monopartitismo, i media allineati. E qua vengo alla seconda domanda, perché in questo ragionamento, in questo strano viaggio che stiamo facendo oggi, Giada, ci stiamo anche interrogando sull'efficacia della comunicazione. Quanto avere media allineati, quindi una televisione di Stato, la CCTV, avere tanti magari giornali, ma tutti più o meno riconducibili al partito, può essere efficace nella gestione di un'emergenza? Magari non è particolarmente eccitante dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista della dissidenza, perché quasi non ce n'è, ma quando è ora di dare un messaggio come funziona? Non solo non c'è, allora diciamo che probabilmente in un'emergenza come questa aver avuto delle comunicazioni controllate da un certo punto di vista è stata una cosa positiva, perché bisognava agire e bisognava chiaramente essere più possibile pronti a fare quello che veniva ordinato. E la questione è obiettivamente capire poi se, siccome chiaramente in questi casi la censura poi lavora e approfitta anche per far fuori nemici oppure per voci dissidenti, insomma c'è sempre il doppio lato della medaglia quando si tratta della Cina, quindi da un lato può essere stata molto efficace perché chiaramente c'era un ordine e bisognava comandare, c'era una lettura della cosa e bisognava obbedire, dall'altro ovviamente c'è il vetro della medaglia di un regime che comunque non è una democrazia, certo. E quindi porta tutto quello che la Cina si sa che ha. Certo. La voce che sentite, l'analisi, è quella di Giada Messetti, giornalista, sinologa, autrice, appena scritto Nella testa del dragone, un libro per Mondadori che vi consiglio, perché a dispetto, come dire, di una ipertrofia mediatica ormai dei dossier cinesi, molto poco si conosce. Io peraltro, ma non lo dico per sviolinare l'ospite, ma ho avuto anche modo di lavorare in Cina proprio con Giada, e come dire, apprezzare anche la sua conoscenza e la sua curiosità nell'andare anche a trovare storie molto laterali e in profondità. Prendetela insomma come una sorta di guida, un piccolo manuale da tenere sempre sotto il braccio se e quando leggerete una notizia sulla Cina. Detto ciò però andiamo ai granelli di sabbia che vanno a inceppare il meccanismo, Giada, perché la lettera che abbiamo appena sentito, addirittura, ma in generale il coronavirus, qualche analista sussurra: attenzione che qua il terzo mandato di Xi Jinping potrebbe scricchiolare leggermente. Sei di questo avviso? No, io non credo, nel senso, soprattutto se veramente l'emergenza è finita, se veramente è riuscito a gestire l'emergenza, io non credo che Xi Jinping entrerà in crisi, assolutamente. Vedo più Trump da questo punto di vista, che potrebbe avere un problema con le elezioni quest'anno. No, anzi, credo che ci sia un rafforzamento, tra l'altro. Come dire, Xi Jinping ha usato la mobilitazione di massa per sconfiggere il virus, che è una cosa che viene usata storicamente in Cina. Sì, nei momenti di emergenza. Sì, si mobilita la popolazione e con l'orgoglio anche nazionalista, insomma, lui l'ha chiamata guerra di popolo contro il demone, quindi ha proprio mobilitato tutta la popolazione. Secondo me lo storytelling che porterà avanti adesso è: noi siamo riusciti a vincere il virus, e quindi addirittura io penso potrebbe uscirne rafforzato come immagine, cioè di uno che è riuscito a gestire comunque un'emergenza globale che altri paesi, ad esempio ieri c'era il direttore del Global Times, che è uno degli organi di partito, che prendeva l'Italia come esempio e comunque faceva notare che quanto è complicato gestire ad esempio in un regime come il nostro un'emergenza come la nostra, cioè. Non c'è dubbio. Quindi in realtà io non credo che farà male farà male forse l'economia, ecco, quando arriverà il problema economico da affrontare, il rallentamento economico, come dicevamo prima, il patto sociale si basa sul benessere in cambio della rinuncia a alcune libertà personali. Se la Cina dovesse rallentare troppo, come alcuni dicono che potrebbe perdere un punto di PIL, che per la Cina è un'enormità, ovviamente lì potrebbero essere dei problemi per Xi Jinping. Però al momento mi sembra che lui ne esca vincitore. Certo, e molto probabilmente, Giada Messetti, quella visita, quelle immagini di Xi Jinping a Wuhan forse rimarranno un tassello nella storia, nella scrittura della recente storia cinese. Grazie mille, Giada Messetti. Grazie, lo ricordo, giornalista, sinologa, ha scritto per Mondadori Nella testa del dragone. A questo punto, Valeria, andiamo a sentire un po' l'informazione finanziaria e poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, Nessun Luogo Lontano. Oggi si fa una domanda: quanto è veritiero lo stress test a cui quasi tutti i paesi del globo sono chiamati in risposta al coronavirus, e che cosa illumina? Quanto ci dice della risposta di alcuni regimi autoritari, di alcune repubbliche islamiche, di alcune federazioni e di alcune celebrate democrazie occidentali? C'è qualcuno di loro che reagisce meglio di altri? E se sì, come comunica questa reazione? Per noi che facciamo comunicazione, evidentemente sono importanti le parole, e sono importanti anche e soprattutto le parole quando arrivano dalla politica, quella più alta, quella che si occupa di governare il paese. Così come sono importanti anche le vostre parole arrivate al 349-238-6666. Qualcuno dice: la Cina dovrebbe spiegare al mondo come mai certe epidemie, certi virus partono sempre dalle loro zone geografiche. Qualcun altro: regimi due punti, la Cina ha bloccato una città, Wuhan appunto, l'Italia ha bloccato una nazione e l'Italia aveva il riferimento degli avvenimenti cinesi che non ha saputo mettere a frutto. In realtà poi ha bloccato praticamente un'intera provincia, quella di Hubei. Hong Kong ha ripreso molto bene, dovevano imparare da loro, così fa eco un altro ascoltatore o ascoltatrice, a volte dalle immagini non riesco a comprenderlo, così come Taiwan, ma tra pochissimo vi racconteremo un altro caso particolarmente virtuoso, quello della Corea del Sud, senza prima evitare di passare invece da un caso che è stato particolarmente vizioso, quello dell'Iran, ancora lì, ancora una volta un regime che si è comportato diversamente. Il rischio economico e politico per la Cina potrebbe essere più a medio che a breve termine, se le catene produttive internazionali la riterranno una fonte di vulnerabilità. Il reshoring potrebbe farle perdere soldi, peso e prestigio internazionale, così un altro ascoltatore. A fine trasmissione cercheremo di rispondere anche a un'altra domanda: quanto il potere, sto parlando in generale, vuole essere una riflessione globale, quanto il potere anche in una situazione di crisi come questa mira all'automantenimento e quindi come comunica in questo caso. E il caso iraniano ci illumina su alcuni aspetti. La storia inizia a fine febbraio, inizia sui social media iraniani quando circola la foto di una giovane e sorridente infermiera, Narges Kanalizadeh, di 25 anni. Poi però ci sono altre immagini che raffigurano la giovane infermiera che, dopo essere stata infettata, dopo ore di cure in ospedale, alla fine non ce la fa. Sarebbe stata la prima infermiera a morire in Iran dopo aver contratto il coronavirus, ma le autorità sanitarie assolutamente non lasciano trapelare la notizia, anzi dicono che era morta per una semplice influenza. Il sito di informazione Radio Farda, che cita come fonte il portavoce dell'Associazione degli Infermieri Iraniani, riferisce che oggi sono almeno 12 i medici e le infermiere morte dopo aver contratto il coronavirus per carenza di mascherine e altri dispositivi di protezione personale. E da ciò si vede come evidentemente il regime non volesse mostrare questo deficit, questa vulnerabilità proprio del sistema sanitario nazionale iraniano. Al momento i dati che sono forniti dal Center for Systemic Science and Engineering della Johns Hopkins University, scusatemi, in Iran ci sono 7.161 casi. Di questi pazienti ricoverati 2.394, i morti 237. Il dubbio, come spesso accade quando si ha a che fare con questi regimi, che i dati non corrispondono alla realtà. Quei dati che riflettono anche il fatto che il contagio partì dalla città di Qom, una città a 150 km a sud di Teheran, non particolarmente grande, 1.200.000 abitanti. Vi faccio sentire la voce del viceministro della salute iraniano, che ci dà in una maniera molto molto evidente quella che è stata la anche maldestria, se volete, nella gestione per di più da parte di un politico e in un'occasione pubblica, appunto, dell'emergenza coronavirus. Sentite. Bismillahirrahmanirrahim. Da ieri ho la febbre e mi sono messo in autoisolamento. Siate certi che con l'impegno del personale medico e del Ministero della Salute e con il vostro sostegno e con il sostegno dello Stato e dei militari, nelle prossime settimane saremo vittoriosi contro questo virus. Sconfiggeremo il coronavirus. Questo virus è democratico e non fa differenza tra poveri e ricchi, uomini politici e cittadini comuni. Molti potrebbero infettarsi, ma abbiamo abbastanza medicine efficaci. Prendetevi cura di voi stessi, prendetevi cura delle infermiere e dei medici che lavorano eroicamente. Il ministro pochi giorni prima aveva partecipato a una conferenza stampa in diretta TV dove appariva febbricitante ma continuava a minimizzare la cosa. Insomma, per fare la storia politico-sanitaria molto breve, quella iraniana, soltanto il 4 marzo il presidente Rouhani ha ammesso la gravità della situazione, oltre al fatto che ormai la malattia è diffusa in tutto l'Iran. Ecco, qua si vede in maniera molto lampante, molto chiara, come il regime, peraltro già preso a spallate da che cosa? Beh, innanzitutto dalle proteste che hanno fatto dai 600 a 1200 morti, ormai sembra una storia lontana nel tempo ma risale a poche settimane fa. Poi c'era stata l'attacco, l'uccisione di Soleimani, le elezioni con pochissima partecipazione popolare, insomma un momento delicato, sensibilissimo, e in questo momento sensibilissimo arriva il coronavirus e così il regime cerca di tutelarsi nei modi che può. Da questo punto di vista ci sembrava un esempio veramente emblematico di come a volte il potere cerchi di tutelare se stesso, ma a volte il coronavirus riesce a diventare un virus più letale per il potere stesso che per il sistema sanitario nazionale. Allora, tra pochissimo voltiamo pagina e lo facciamo con Dino Amenduni, che è un esperto di comunicazione e soprattutto di comunicazione politica. Amenduni, buongiorno, ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora, ci siamo già sentiti altre volte per commentare per esempio quello che è lo stile comunicativo di Donald Trump e ne abbiamo tratti alcuni insegnamenti. Adesso siamo in un momento un po' più sensibile, dove forse bisognerebbe garantire maggiore sobrietà nell'informazione, nella comunicazione politica, forse maggiore univocità. Ci dà due o tre consigli, due o tre dritte, diciamo, su come si comunica un'emergenza? Allora, l'obiettivo principale quando si parla di comunicazione di crisi, soprattutto guidata da istituzioni, è evitare la cosiddetta infodemia. L'infodemia è un movimento di informazioni spesso non verificate, provenienti da fonti multiple, che creano confusione nei cittadini, soprattutto perché i cittadini tendono a cercare fonti che confermano le loro idee iniziali, i cosiddetti bias o distorsioni. Sì. Quindi bisogna evitare che questo effetto si riproduca in modo automatico, e si può evitare riducendo tre conflitti. Il primo conflitto è quello tra livelli istituzionali. Se un comune dice una cosa, una regione ne dice un'altra, lo Stato ne dice un'altra ancora, il cittadino tenderà a fidarsi più del sentito dire che della comunicazione istituzionale, per esempio. Il secondo livello di conflitto da evitare è quello tra esperti. Lo abbiamo visto soprattutto nelle prime fasi del coronavirus, come alcuni immunologi, virologi dicessero cose un pochino diverse tra di loro. Anche questo tipo di dinamica di discussione dell'opinione pubblica porta il cittadino a preferire rimanere sulle proprie idee, anche se sbagliate, non verificate, o a fidarsi magari dalla catena di Sant'Antonio che gli arriva via WhatsApp senza alcuna verifica, piuttosto che affidarsi all'opinione di un esperto, perché appunto il cittadino pensa: se gli esperti si contraddicono tra di loro, allora rimango della mia idea. Sì. Il terzo conflitto da evitare è quello che hanno agitato in alcuni casi media, cioè i media hanno avuto due comportamenti, abbiamo visto in Italia ma non solo, che sono un po' problematici. Il primo è quello di modificare abbastanza rapidamente il senso di ansia rispetto a un fenomeno. In Italia abbiamo visto all'inizio un'ansia che sembrava eccessiva rispetto alla natura del fenomeno. Sì. Poi nel momento in cui il fenomeno è cresciuto dal punto di vista del contagio, invece sembrava che i media dicessero tutto a posto, non dobbiamo farci influenzare. Ora ovviamente con l'adozione delle cosiddette zone rosse a livello nazionale i media si sono allineati e questo tipo di livello di conflitto si è ridotto. E poi c'è un altro livello di conflitto, cioè come coprire una crisi di comunicazione. Se dare tantissimi aggiornamenti in cadenze davvero frequenti anche su cose magari minori, nel caso del coronavirus appunto i primi giorni c'era il sospetto contagio nella provincia tal dettagli per cercare di verificare quanto fosse rapida l'epidemia, o se piuttosto rinunciare a sospetti, previsioni, allusioni e puntare magari su un'informazione meno frequente, un pochino più approfondita e che verifichi le cose solamente dopo numerose ripetute verifiche per l'appunto. Chiarissimo, Dino Amendoni, lo ricordo, è un esperto di comunicazione e molto spesso ha supportato anche la politica in una efficace comunicazione. Qua veniamo a una delle domande che ci siamo posti noi in Nessun Luogo Lontano mentre iniziavamo a pensare a questa puntata. In momenti di crisi come questa, sto pensando dal presidente statunitense Donald Trump a Rouhani in Iran fino a Xi Jinping in Cina, quanto il potere pensa a salvaguardare se stesso? Cioè quanto il coronavirus è un problema per la società e la popolazione e quanto per il potere stesso? E se lo è, come viene comunicata, se viene comunicata questa cosa, Amendoni? Allora, ci sono due elementi da tenere in considerazione. Il primo è la vicinanza con l'appuntamento elettorale. È inutile che cadiamo dal pero quando un amministratore pubblico è sotto elezioni, cambia atteggiamento, radicalizza alcune questioni, ne polarizza delle altre, cerca di trovare una soluzione più rapida a problemi che magari richiederebbero un passo più lungo. Il caso del coronavirus è abbastanza eclatante, lo vediamo anche un pochino in Italia, alcuni presidenti di regione sotto elezioni si comportano in modo diverso da presidenti di regione appena eletti o che non hanno lo stesso tipo di incombenza. La seconda questione, che secondo me è una questione molto interessante che dobbiamo ancora valutare nella sua interezza, è il livello di conflitto tra un tipo di comunicazione molto schiacciato sull'immediato, quindi c'è un problema, io prendo posizione immediatamente, faccio il tweet rapido, ho subito un'opinione, e questioni che evidentemente non si possono risolvere in 24 ore. Lo scontro tra una modalità di comunicazione che fa dell'immediatezza, in alcuni casi anche della contraddizione sistematica, il proprio punto di forza, è una dinamica che inevitabilmente richiede tempo, la questione del coronavirus richiederà tempo, mesi, forse anche più di mesi, crea in qualche modo un attrito che è poi difficile da gestire, perché appunto un Trump che comunica in modo immediato difficilmente sarà credibile nel dire guardate, dobbiamo essere tranquilli, aspettate, c'è bisogno di tempo, ed è per questo che oggi appare un po' in difficoltà, sembra un negazionista di un problema che evidentemente ormai è al confine della pandemia, e sembra che stia cercando di prendere tempo, ma è un azzardo enorme, e Trump ha il problema appunto di essere sotto elezioni e probabilmente sta cercando di prendere tempo sperando di rimandare al più possibile l'appuntamento con la realtà, ma è un azzardo davvero molto pericoloso. Grazie mille Dino Amenduni per questa analisi, esperto di comunicazione, in particolare comunicazione politica, ha messo in luce quelle che sono le vulnerabilità, ma anche le possibilità, le opportunità che il coronavirus sta creando per alcuni regimi, evidentemente. Grazie mille Amenduni, buona giornata, buon lavoro. Noi andiamo a sentire la viabilità e poi l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano, andremo a Seul. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che avviene al di fuori dei confini nazionali. E però in questa puntata in cui parliamo del rapporto tra politica internazionale e coronavirus, evidentemente è ciò che è qualcosa che accade anche all'interno dei confini italiani, ma anche se è un programma questo che non parla assolutamente di politica interna, non per una qualche forma di snobismo, ma per una palese incompetenza da parte mia e della mia squadra, nel senso che siamo osservatori della politica italiana, siamo cittadini italiani come voi, ma il nostro campo di esplorazione, di ricerca, di studio riguarda piuttosto l'estero, con competenze diverse ormai un po' avete imparato a conoscerle, per cui non c'è nessuna autocensura nel fatto di o censura nel fatto di appunto censurare quelli che sono i vostri commenti, in particolare sulla situazione in Italia. Ben altri programmi qui da queste stesse frequenze vi sapranno illuminare con analisi valide. E invece sto a quelli che sono i commenti sul coronavirus. Stavo dicendo a inizio trasmissione, lo stiamo prendendo come un vero e proprio stress test. Lo stress test è un qualcosa che si può fare nelle aziende, lo si può fare in laboratorio, per mettere alla prova la resistenza di un dispositivo, per mettere alla prova la resistenza di un organismo. Ecco, il coronavirus sta mettendo alla prova vari regimi in giro per il mondo, da una Repubblica Islamica fino a una federazione di stati, dagli Stati Uniti d'America, da antiche democrazie fino a regimi con dei partiti unici, al monopartitismo. E stiamo cercando di esplorare e capire quali sono le differenze di risposte proprio rispetto a questo stress. Un po' di ascoltatori, si sa nulla di come la Cina stia gestendo il problema in Tibet e in Xinjiang? E questa è una domanda. Un altro, meglio un disordine, il disordine è vario, che un ordine basato sul male, le dittature sono il male. Ma al di là delle, gentile ascoltatore, delle connotazioni strettamente etiche, che mi sembra un po' il tenore del suo messaggio, qua stiamo provando a ragionare sull'efficienza, sull'efficacia. Un regime autoritario, nel momento in cui arriva l'emergenza, è più bravo a gestire l'emergenza di una democrazia che con tutti i suoi passaggi parlamentari magari è più lenta? È semplicemente una domanda, ovviamente non travestita da alcuna connotazione etica. Vi dicevo, casi viziosi e casi virtuosi, quello dell'Iran, sullo sfondo gli Stati Uniti con Donald Trump che minimizza la situazione in vista del novembre 2020, in mezzo la Corea del Sud. Ci andiamo con Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Estremo Oriente e peraltro kendoka. Giulia, buongiorno, come stai? Buongiorno a voi. Bene. Ho detto kendoka perché in un momento in cui anche noi tutti cittadini italiani stiamo cercando di seguire al meglio le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità, chi pratica un'arte marziale come il kendo e magari può fare dei kata anche in pochi metri quadri non si annoia da solo, ed è il caso di Giulia. Sì, si fa benissimo a casa. Ecco, questa non è alta politica internazionale, ma permettetemi, ascoltatrici e ascoltatori, ogni tanto di sdrammatizzare un filino. Detto ciò, Giulia è esperta di attualità e di politica dell'estremo oriente. Proviamo a sintetizzare, Giulia, quella che è stata la risposta della Corea del Sud, perché è interessante anche vedere, mi accennavi prima fuori onda, quella che è stata anche il ruolo dell'opposizione politica. Sì, negli ultimi giorni sta uscendo fuori un po' come il modello virtuoso, no? L'esempio democratico che può essere un test per tutte le altre democrazie, prendere delle decisioni anche sofferte, però con sempre mantenendo molto solide le basi democratiche. E la Corea del Sud un po' è stato questo, ma non che non ci siano state polemiche all'inizio. Per esempio il governo del democratico Moon Jae-in all'inizio dell'emergenza aveva dell'emergenza in Cina ha un po' minimizzato quello che succedeva in Corea del Sud, ovvero i casi erano pochissimi e nelle prime settimane non ha preso nessuna precauzione, anche per un riavvicinamento che c'è in questi mesi tra la Corea del Sud e la Cina. Diciamo che all'inizio, quando l'Italia ha dato lo stop ai voli dai, per la Cina, paesi sì, molto più vicini come Giappone e Corea del Sud non ci hanno pensato minimamente. C'era una restrizione solo per quanto riguarda la provincia dello Hubei, sì, ma ad ogni modo Moon Jae-in, quando è iniziato veramente l'epidemia in Corea del Sud, a Daegu, questa cittadina al sud molto industriale, per colpa di una setta probabilmente che ha portato, che continuava a fare le preghiere anche nonostante ci fosse il divieto, soprattutto sì, assembramenti piuttosto corposi, e in questo caso non c'è religione che tenga, insomma, se l'assembramento c'è è evidente che il rischio diventa altissimo. Esatto, a quel punto non hanno mai messo la città in lockdown, perché la maggior, il 90% dei contagi è in quella zona lì, ma loro hanno deciso esplicitamente di non parlare mai di lockdown. Quando un portavoce del Partito Democratico ha parlato di lockdown, massimi, sforzi massimi per contenere il contagio, l'opposizione subito ha detto: ma non starete parlando di un lockdown in, in stile Wuhan? E loro hanno dovuto subito chiarire che non c'era assolutamente nessuna limitazione sulla libertà personale delle persone, però ovviamente si tratta di, a quel punto, di avere fiducia nelle persone. Come fai ad avere fiducia? Controllandole. Ok. Perché fidarsi bene, ma non fidarsi è meglio. Ecco, allora a quel punto, come dire, c'è un aspetto anche culturale, perché comunque l'est asiatico ha una partecipazione, un senso del bene comune che è profondamente diverso da quello occidentale, però tu dici, Giulia, corroborato anche da dei sani e rigorosi controlli si ottiene un effetto strepitoso. È un po' questa la ricetta virtuosa della Corea del Sud, però il ruolo dell'opposizione, perché ci siamo sentiti qualche ora fa e mi dicevi che l'opposizione ha avuto un comportamento altrettanto virtuoso, oppure dovremmo dire costruttivo quantomeno? Sì, come in tutti i paesi asiatici, il rispetto per le istituzioni è una cosa coltivata fin da bambini. Sembra un po' retorico, ma è la verità. E infatti, in situazioni di emergenza, quando il governo sudcoreano indossa la giacca gialla, che è quella del simbolo del governo che affronta un'emergenza, sì, non ci sono politici d'opposizione che si scagliano contro o che cercano di capitalizzare i fallimenti magari o gli sbagli e gli errori che possono accadere in situazioni del genere, decisioni sbagliate in situazioni simili. Per esempio c'è Han, il capo del People's Party, che è un partito di opposizione, sì, piccolo ma di opposizione, sì, che sta fallendo moltissimo nei sondaggi, perché si è arruolato nella fila dei volontari, essendo un medico, e tutti i giorni parla ai giornalisti, quindi si fa vedere in pubblico perché sta a Daegu e cura i malati, quindi sta sulla front line, no? Sì. Però non ha mai parlato male delle decisioni del governo, non ha mai detto una parola contro Moon Jae-in. E questo è stato molto apprezzato. È certo, perché è ben diversa da certe opposizioni politiche molto frontali a cui siamo abituati noi in Occidente. Sono in chiusura, ringrazio Giulia Pompili, giornalista del Foglio, ricordo anche la sua newsletter Katane, e ti lascio rimbracciare la tua katana, così prosegui nei katà, perché insomma noi tutti più o meno confinati dobbiamo tenerci in forma e in esercizio. Giulia Pompili, grazie mille, giornalista del Foglio, buona giornata, buon grazie lavoro. Allora, avevo 30 secondi e c'era una osservazione molto molto interessante di un ascoltatore, fatela recuperare. Non ne farei solo una questione di autoritarismo o democrazia, ma la capacità di affrontare emergenze impreviste dipende anche dall'attitudine della popolazione a guardare il bene comune e a rispettare le indicazioni dell'alto. Diciamo che le indicazioni che ci sono arrivate sia da Cina che da Corea del Sud, in questo senso senza dubbio, vanno a corroborare quella che è la tesi di Diego. A questo punto quasi fossimo in un regime autoritario, cioè un colonnello qua di fronte a me che mi dice una parola sola. Usuale preludio ai titoli di coda e ringraziamenti per essere stati con noi, ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani, ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.